quando passi un momento difficile, nessuno, dico, ti può aiutare. Su di te devi solo contare. Prendi ciò che hai di più profondo, metti tutto su un piatto d'argento, proteggilo dalla luce del giorno, curalo, dagli il meglio del meglio, che tu puoi sfiorare l'eterno e sconfiggere anche l'inferno. Fagli mangiare antipasti di mare, dimenticate di farlo soffrire, ed esponi i tuoi occhi al sole, alla luce che si nutre di sale. Fai che sia, dillo al tuo, digli tutto, che parlare con te dà un bel frutto. Avrai tempo per capire i tuoi errori, quando avrai negli occhi i colori, spighe di grano e un mazzo di fiori. Non nasconderti dietro paraventi che crolleranno ai primi deboli venti. Scrollati di ogni inutile cosa, non inchiodare il tuo tempo all'attesa, non inchiodare mai il tuo tempo all'attesa. Fai che sia, che non sia mai una resa, dammi retta. Fai che sia sempre accesa, perché la tua vita è meravigliosa, anche se a volte sembra una spirale di spine, una spada che attraversa il confine, perché la tua vita è meravigliosa, e da ogni lacrima che avrai ricevuto nascerà un giorno una rosa. A volte annusi la morte, non abbandonarti al pianto, alla sorte, e se proprio ci tieni, dacci dentro, come un gabbiano vola sopra ogni campo. Purificati di ogni indecenza, ama il tuo corpo, prendi pazienza, che il cammino non ti sia più di scoglio, il tuo rifugio sarà un nido di giglio. Tu sarai madre, padre e anche il figlio, tutti vedranno il tuo albero maestro, il tuo coraggio, il tuo animo giusto. Tu sei celeste, più celeste del cielo, in te credo, in te solo confido, una stella che va come un treno, perché più alto è il tuo amore infinito, più luce avrà il tuo splendido viso. Ed incanto sarà paradiso, ed incanto sarà paradiso. Fai che sia, che non sia mai una resa, dammi retta. Fai che sia sempre accesa, perché la tua vita è meravigliosa, anche se a volte sembra una spirale di spine, una spada che attraversa il confine, perché la tua vita è meravigliosa, da ogni lato. lacrima che avrai ricevuto, nascerà un giorno una rosa.